fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di... Marco e Alessandro. Buonasera ragazzi, Marco, per quanto ho potuto capire sei il festeggiato. Esatto, sì. Quanti anni sono questa sera? 26. Wow, bella tappa. E il tuo amico, giusto? Sì, sì, sì. Sempre 26 sì. Anch'io. Sempre. Come sta procedendo la serata? Vi vedo scatenati. Benissimo, per ora tutto bene, abbiamo ballato, mangiato, abbiamo fatto la doccia con la torta. La doccia con la torta. Ti ho visto, ti hanno... la torta non ce l'ha più, diciamo che non avete mangiato la torta. Per... La torta ci ha avuto in faccia. Ma hai mangiata solo tu? Esatto. E loro? Niente. Loro niente. Ma io mentre stavo facendo la foto alla torta mi stavo rischiando un bagno. Sì, sono scappata di corsa. Infatti poverina si è trovata una cameriera, si è trovata tutta bagnata perché stava andando a prendere la torta, poverina. Cerchiamo di fare le cose in grande sempre. Diciamo che non si nota. Da dove venite ragazzi? Io da Nuvolera. Mazzano. Ok, ok, siete della zona più sì, o meno? Sì, sì, sì, siamo qua vicini. Ok, io più o meno secondo voi vi sembro della zona? No. No? No. Sono dell'Italia. Sud, sud, sì. Sud, sì, eh? Sì, sì, si sente? Sì, no, sì. No, napoletana. La campana. Napoletana. Sono napoletana, ragazzi. Sì, sì, sì. Sono qui da 3 anni, quindi... Cosa ti ha portato qua? Quello che non c'è giù, il lavoro. Il lavoro. Cioè, è la classica domanda che... E sei qui di intervistare noi. Esattamente. Esattamente. Che non mi ricordo i vostri nomi, perché non so... Marco. Marco e Alessandro. E Alessandro, ok. E Valentina. Valentina. Valentina, Marco, Alessandro. Buonasera, siamo qui in diretta. Dai, sei mai stato in diretto? Mai, no, mai, hai visto? Mai, mai, mai. Sono i vostri amici quelli fuori? Sì, sono Ivan, Andrea e Simone. Dai, li salutiamo in radio. Un saluto. Ciao, ciao. Non vede nessuno. Loro non ci sentono, ma ci vedono. Loro non ci sentono. Quello è il problema. E cosa fate di bello nella vita? Lavoriamo nella stessa ditta, tra l'altro. Yes. In una ditta di Mazzano. Non si possono fare sponsorizzazioni. No, diciamo no, no. No, più che altro di cosa si occupano? Non si è... occupa di... Di io per esempio faccio il rettificatore. Ok. Comunque cose abbastanza... Meccanica. Meccanica, esatto. Ok. Meccanica. E tu? Io sono sempre nella stessa ditta, mi occupo sempre di meccanica, a parte del magazzino, ma sempre nella, okay, nel contesto della meccanica. Ok, ok, ok. Lui okay. È l'assunzione obbligata, no, scherzo. Ogni torno, assumono uno, io mi sono... Ah, tu sei quello l'uno, sì. Quell'1% che è capitato nell'assunzione. Ma siete amici da quanto tempo? Sì. Dalla vita. Diciamo dall'asilo. Bene, sì, bene. Sì, sì, dall'asilo. Allora diciamo che il tuo amico ti potrebbe fare una bella dedica. Assolutamente. Adesso su facciamo piedi. Parlare anche un po' pure a lui. Allora prendo un po' di tempo così lui adesso ci pensa. Allora ci conosciamo dall'asilo, non abbiamo fatto le elementari insieme perché io sono andato in un'altra scuola. Le medie le abbiamo fatte nella stessa scuola ma in 2 classi diverse. Le superiori 2 percorsi diversi, ma alla fine siamo finiti per rincontrarci al lavoro. Gresti insieme, catechismo insieme, tante parti, calcio insieme, tante diciamo parti, sempre insieme, questo non l'avevamo capito. Tante parti della nostra vita abbiamo fatto insieme. Morose, condivise, no? Questo era un problema, ragazzi, ve lo dico, è un problema. Questo lo tagliamo. Questo lo tagliamo. Bip. Però, nessuno sa niente. No. Siamo finiti insieme, 26 anni, siamo qua ancora insieme. Bello, bello. Ma intanto lui ha pensato la dedica. Io ho preso un po' di tempo. Adesso voglio vedere la dedica, voglio sentire la dedica. La dedica. La dedica. Dai, breve e concisa ce la possiamo fare. Sì, dai, sì. No, posso dire che con questo ragazzo, Marco, ho fatto le cose più belle, penso, fino adesso, della mia vita. E anche le più brutte. E quindi sono stato proprio onorato perché mi sono proprio divertito, me la sono proprio goduta al massimo. Spero di aver condiviso anche per lui questa esperienza di... Penso che vale la stessa cosa anche per lui. Perché abbiamo fatto le più belle e le più brutte. soprattutto è più brutto. Che sono quelle che ti ricordi di più. Ti rimangono impresse, eh. Penso che fai anche una tipo una classifica dalla più brutta alla bella. Ci sta. Come calcolando che sono tanti anni che vi conoscete, la graduatoria ci deve essere per forza. La più bella non è neanche di tanto tempo fa. In breve. La più bella la voglio sentire, non voglio sentire la più brutta, ma la più bella sì. La più bella, cioè la più simpatica, che poi dovresti capirla nel contesto, perché dopo al di fuori fai un po' fatica a immedesimarti. Però praticamente eravamo in discoteca, al number one se non sbaglio, e ovviamente per non guidare quando si beve abbiamo preso la navetta del pullman. Lui era talmente di spato e non si ricordava neanche come si chiamasse. L'hanno trovato, lui si è addormentato sul pullman, non è sceso alla fermata nostra, si è trovato dall'altra parte della città, telefono spento, senza un euro. L'avevate perso, diciamo. E non si sa come il giorno dopo, in qualche modo, tra autostop e tutto, è tornato a casa. No, io voglio sapere, ti ricordi come hai fatto a tornare a casa? Sono finito a Rocca Franca, avevo l'1% del telefono, con l'1% del telefono sono riuscito a contattare un amico tramite un gruppo WhatsApp che mi ha detto: oh, ti vengo a prendere io, che a 6:30 era sveglio, buon di domenica a caso. Ed era lucido, quella è la cosa sì, bella. Sì, è venuto a prendermi e mi ha riportato Rocca Franca, Rezzato, dista più o meno 50 chilometri, però è venuto a recuperarmi. Ma la cosa bella è stata che noi siamo scesi dal pulmino, ci siamo accorti della sua assenza e che talmente rovinato. Anche voi non stavate bene, perché comunque non vi siete accorti che lui non c'era. ci siamo accorti, perché ci siamo guardati negli occhi, ma abbiamo visto la macchina nel parcheggio, ma rega. Tu non ci sei andato in una riposta, tu ti siamo di casa. Riga. E lo lasciato andare. E noi siamo andati a dormire. Come ti vogliono bene che ti hanno lasciato andare via da solo? No. Proprio andato. E va bene ragazzi, io vi lascio un buon proseguimento della serata. Grazie. È stato un piacere scambiare due chiacchiere con voi. Grazie a te. E vi saluto. Vi auguro una buona serata. Buon convento a te, grazie. Grazie, ciao.